Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Silenzio, ragazzi! Papà ci vuole dire qualche cosa. Beh, anche questo Natale se lo siamo levato dalle palle. Esiste una rappresentazione volgarmente grottesca della realtà? O la nostra realtà è oggettivamente una realtà volgare, e quindi è giusto che qualcuno ci ricordi ogni anno, da 30 anni, attraverso il cinepanettone, quale immensa chiavica noi siamo nei nostri rapporti personali, nelle nostre relazioni, nelle nostre aspirazioni, nei nostri desideri e nelle nostre meschinità. Sono 30 anni che in Italia esiste il fenomeno cinematografico del cinepanettone, esattamente, il primo cinepanettone dell'83. Il termine poi è stato coniato in seguito, quando il genere ha cominciato ad avere una sua consistenza, una sua liturgica ritualità. Sotto Natale, il cinepanettone è il film comico sboccato che tutti vanno a guardare, tra un rutto, tra una digestione, tra una rimpatriata fra parenti. Il pomeriggio, dopo aver mangiato, si va tutti al cinema e si guarda il cinepanettone. Un genere che in questi 30 anni ha avuto vari flussi, ha avuto importanti momenti di verifica, ha avuto riflessioni, ha avuto un'improvvisa e straordinaria eclissi, sembrava scomparso, poi ha avuto virulenza, è diventato un oggetto di culto. Andando a vedere il cinepanettone, non soltanto gli appartenenti al pubblico di riferimento, a coloro che si erano immedesimati nelle vicende boldi, De Sica e via dicendo, ma anche quelli che con una sorta di snobismo superiore lo guardavano perché volevano respirare l'aria del popolo, capire come si diverte il popolo, vedere rappresentata la schifezza della gente comune in maniera così drammaticamente realistica, senza però pensare e immaginare che anche loro erano protagonisti del cinepanettone. Serve aiuto? Si è fatto male? Mi pare guidare, Marcel! Adesso mi tocca prendermi un tavolo! Ma io te conosco con sta fascia, ragazzo! Ma tu non sei coso? Varese! La branda di sopra che serve a Duca degli Abruzzi La Spezia! Ma tu sei Frosinone, la branda di sotto! Dacci tua! Ma quanto tempo sarà passato la ranacchia? 20 anni, quanto? Ciao, come stai? Ma tu sei proprio uguale a 20 anni fa! Tale quale tua mamma, spiccichiamici che! E te invece no? Ma che hai fatto? E i capelli andò li messi sotto traccia. E stavanza, amore mio, sei una tragedia. Grande rientro a Melog, Giuseppe Sanzonna. Buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Sanzonna, regista, critico cinematografico, persona che per anni ci ha seguito a questi microfoni, sviscerando il rapporto stretto che esiste tra la rappresentazione della commedia grottesca e la realtà del nostro paese. Ci vediamo anche quest'anno, a 30 anni dal cinepanettone, a cercare di capire qualcosa di più su questo genere. Ma cos'è il cinepanettone? Innanzitutto ci saranno delle corsie comuni, sono accomunati comunque da delle cifre stilistiche omogenee. Una di queste è che rappresentano perfettamente quello che è o la realtà o l'aspirazione al passare le vacanze in maniera straordinaria. Il primo cinepanettone è Vacanze di Natale 83, quindi parte proprio nella rappresentazione di una vacanza per far vedere alle persone che magari in vacanza non ci vanno come vorrebbero, come potrebbero, quale sarebbe l'apoteosi del loro desiderio vacanziero sotto le feste di Natale. Sì, l'archetipo è quello dell'83, e ha tutta la brutalità sfavillante degli anni 80 e delle figure complesse che sono le sue macchiette, le sue i Mario Brega che fa il macellaio a Viale Marconi a Roma e voleva andare a Ovindolo, in realtà Ovindoli come dice lui, e si ritrova a Cortina, quindi l'irruzione della macelleria. E lo spaesamento totale rispetto anche al misero e banale sogno di vacanza del macellaio. Col figlio dello pseudo borgataro Amendola, e il contraltare Guido Nicheli, il Pietro Bembo della contemporaneità degli anni Ottanta, capace di creare questo pastiche linguistico straordinario fra inglese e italiano. Sulla sua lapide c'è scritto "See you later", questa io la trovo una cosa commovente e sublime, faceva il rappresentante di liquori e si ritrovò al derby a odorare quella notte milanese che gli ha costruito il linguaggio e che lui immetteva in questo primo grande archetipo delle vacanze di Natale. Quindi erano figure ricche, antropologicamente dense. Però c'è la rappresentazione comunque abbastanza complementare delle due macroscopiche orripilanze del nostro paese, il nord industrializzato, il centro, il crasso centro, la verminosa pancia del potere in Roma. Roma e Milano, sì, e poi ci si poteva permettere all'epoca di dire tranquillamente animale al cameriere, perché così era il potere, così il potere si manifestava senza veli e senza ipocrisie. Ivano, puoi volare l'occhio sul te? Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing. Cos'è, il nuovo record stagionale? Esatto, ti dirò di più, se noi arriviamo in camera nel giro di 3 minuti, siamo sotto il muro delle 3 ore. La vedo dura. Qui per ritirare la chiave toccherà stare in lista d'attesa tutta la mattina, vedrai. Ma quale lista d'attesa, testa? Io ho il passepartout qui. Questa è la testa della fresca latta. Tu stai vicino, mi segui e non prendi le iniziative. Vamos. Grazie, signore. Certo, se noi guardiamo il cinepanettone nella sua scaturigine più lontana, analizziamo la crisi, i problemi della società contemporanea, i forconi che scendono in piazza, la classe politica che come da mini di Versailles guarda oltre gli spalti la folla con i forconi e dice tiriamogli le brioche così almeno si possono sfamare, se non hanno pane. Beh, ancora una volta dobbiamo confermare la nostra scellerata teoria che c'era un senso profetico profondo nella rappresentazione più infame della nostra realtà. Eh sì, infatti qui la prevaricazione è vista in maniera trionfante perché erano gli anni Ottanta, avere una tessera e poter saltare la fila. La frecciolata, ti ricordi? Sì, sì. Era una conquista, capito? Oggi come il tesserino del Frecciarossa, visto che il treno va più dell'aereo, capito? C'è una famosa videoclip dove una nota conduttrice televisiva si finge tremante al freddo febbricitante nella stazione dicendo datemi la tessera per la Frecciarossa, che sono i luoghi dove puoi andare con un po' più di conforto. E questa è stata completamente coperta di vituperi. E poi c'erano presenze come Stefania Sandrelli, che qui fa la moglie di Guido Nichedi, cioè presenze floride del cinema autoriale, decadute in questo. Ancora non chiavizzata da Tinto Brass, quindi no, già chiavizzata. Già chiavizzata. Ah, quindi era la risurrezione dopo la chiavizzazione, no, sì, di Tinto Brass. Comunque, chiavizzazione autoriale, perché Brass comunque. È stato un grande recupero, però. Cioè, certo, appunto. Quindi questi cortocircuiti che invece oggi attingono sempre dal adesso mondo. Adesso è una fase successiva, è una fase di recupero della fase. Della nonna, della mamma, della saggia, ma la chiavizzazione fu perfetta, ridette dignità e gloria alla coscia cellulitica, al sogno erotico che anche la moglie in fondo gira e ti rigira, è qualcosa per cui vale la pena di sognare. Certo, certo, con grandi riferimenti a Miyazaki e a tutto quel mondo, mentre oggi invece le partner femminili sono prese appunto dal vivaio televisivo, quindi non hanno neanche quelle stimmate autoriali che avevano. Sono già logorate dall'abuso che ne fa la televisione. È tutto già logorato, è tutto già iper presente e bidimensionale, mentre queste erano figure con una loro densità umana che anche in un contesto degradato come quello del cinepanettone appunto coglievano degli spaccati. Ho detto una frase molto interessante: gli ultimi cinepanettoni danno questa impressione bidimensionale perché sembra personaggi presi da un altro contesto, quindi dalla logorante strapassaggio televisivo, appiccicati come si appiccica un fotomontaggio dei poveri, sono fuori dal contesto, fuori dallo sfondo. Quando vedi forse la Ferille, quella che più ha ridato corpo alle tradizioni, una grande bellezza, ma anche una grave capacità. Ma le apparizioni di Belen al cinepanettone, hanno fatto un cinepanettone anche con l'eroina argentina di una specie di telenovela per ragazzini, capito? Che non c'entrava nulla, si capiva che non c'entrava nulla, era perché in Italia in quel momento funzionava la scellerata miniserie con la bambina cozza sudamericana, e quindi meramente l'hanno infilata dentro, fuori contesto totalmente. E lì per postmoderno si cita la televisione e non la realtà. Oh, ma che tecchio di questo carro da morto! Eccola, barotto l'optional e farei antinebbia, 580 carte devo sganciare. Senta, bell'uomo, scusi, questa è la mia assicurazione, ecco, nel senso che la compagnia è mia, l'ho comprata io, non è che voglio fargliela pesare. No problem, non si preoccupi, per un fanalino antinebbia, 580 carte, che vuole che sia, signora. Enzo! È la mia signora, è un po' buzzicona, però è molto rapante. Molto. Enzo, è mai chiodato dentro a sta gabbia, sono tutta appiccicata. Dov'è che ci fregherai le valigie? Non strilla, che poi ti senziamo nelle tonsille e mi diventi pellicano, soffri di faringite. Vediamo di definire un pochino quali sono, anche se saranno straconosciuti da chi ci ascolta, quelli che sono i luoghi letterari ideali del cinepanettone. Le coppie, innanzitutto, sono coppie che vanno in vacanza. Normalmente lui è sempre un inveterato Don Giovanni, o perlomeno ci prova. Le mogli sono un po' più tolleranti, ma in altri casi non è esattamente così. Sì, il duopolio Roma-Milano, qui sintetizzato da Christian De Sica e Boldi De Sica, che porta al logorio la maschera paterna, volgarizzandola e contaminandola col sordi più estremo, più musicale. Sì, è come una giacca usata che a forza di metterla alla fine è tutto un buco. Sì, e si contrappone invece a Boldi, che porta la sua fisicità grottesca, dilatata, calva, e quindi si contrappone anche all'estetica di Christian De Sica. Però la volgarità poi esplode quando la moglie è Nadia Rinaldi, appunto, che era la buzzicona. Dice buzzicona ma sexy. Contrastante, questa burrosità popolare che anche lì funzionò per un periodo breve in televisione. Negli anni 90 i cinepanettoni in realtà andavano al cinema ogni lustro quasi, se ne fecero tre negli anni 90. Poco e c'è più. Un motivo, secondo te? Si era considerato che era inflazionato il fenomeno? Gli anni 90 non avevano una loro definizione particolare, sono anni un po' difficili, ancora non sono collocabili negli epici decenni. Gli anni 80 sono i fantastici anni 80, dagli anni 90 in poi non c'è più niente di fantastico. È vero questo, ma è vero anche che si cercava di mantenere una diversificazione dei ruoli. Dal 2000 in poi diventa proprio sistematico il Natale A, e quindi la possibilità di trasformarli poi in quelle figure bidimensionali di cui parlavamo prima, ridurli completamente a delle pure macchette. Sì, anche perché ormai era entrato nel lessico popolare generale l'idea del cinepanettone, però non era definito. Una volta definito è diventato un genere. Prima era il film che si andava a vedere sotto Natale, ci andavano i ragazzi, ci andavano i militari, ci andavano i poveretti che non andavano a vedere il grande cinema impegnato, non andavano a lessarsi le gonadi con Angelopoulos, quindi andavano naturalmente a vedere il cinepanettone. Ma come vuoi che mi comporti con lui? Stai tranquilla, sarò delicatissimo. Astruzzo, ma che fai a spiglia? Ma che spiglia, che spiglia? Ma poi com'era sta margherita? Guarda, cavolo. Ma è incesso. Te volevi ammazzare questa? Sono innamorato. Innamorato. Ho cognato innamorato. Sattura! Ah! Ecco, eccesso o eccesso? Felice, tu devi fartene una ragione, devi accettare la realtà, devi bere la mano. C'è anche da dire, Giuseppe Sansonna, che andando avanti nei decenni si differenzia anche la villeggiatura tipo dell'italiano coatto medio, quindi non è più a Rimini, non è più a Cortina per sbaglio, bisognava andare a Rovindoli e via dicendo, ma esiste la crociera, esistono poi paesi, c'è stato i paesi dell'est, Natale in India, a Rio e via dicendo, è cominciato a viaggiare, capito? Questo è il Natale in crociera, però, che qui Debord risorge dalla tomba, no, con la società dello spettacolo, perché qui addirittura ingaggiarono, se ti ricordi, cioè tu potevi partecipare al film partendo per la crociera pagando cade la barriera fra reale e rappresentato. Cioè, lo spettatore entra appunto nel mondo di De Sica, che è un mondo De Sica, Boldi, un mondo irreale, che però lui vuole vivere in pieno in questo sfavillante. Ci fermiamo solo un istante, poi riprendiamo con Giuseppe Sansonna sul cinepanettone. Melog, cronache meridiane. Complimenti, bravo. Però vedo che anche lei è capace, eh? E cosa, scusi? Ma come, appena riprodotto il verso della tigre maschio in amore prima della copula? Ma non dica stupidaggini, io non ho riprodotto proprio niente. Ma non faccio il modesto! Adesso sto imitando il tipico gemito che precede l'accoppiamento. E lei sa imitare il verso della tigre femmina in calore? Beh, mi chiede un pochino troppo, però ci posso provare, eh? Allora lei rimane qui, accucciato, non si muova, si mette a colombrina, pecorina, come preferisce, e non si muova fino a quando non glielo dico io, qualsiasi cosa succeda, d'accordo? Dove va? Dove va? Si fidi. Mi fido? Sì. Ho capito. Dada! Risparmio l'orrendo epilogo di bestialità fra Boldi e una tigre attizzatissima, qualcosa del genere. Qua siamo già andati in Natale in India, qui sì. Già stanno cominciando con i fichi d'India pure, mi pare, si differenzia anche il panorama delle rappresentazioni. La meta spirituale, esotica, l'India diventa degradata appunto semplicemente a un Apuleio da sottoscala, cioè qui viene Boldi viene penetrato appunto da una tigre. Io pensavo fosse una volgarità mai raggiunta, in realtà ha un precedente illustre, perché in una poltrona per due di John Landis c'è la scena sul treno con la scimmia, però lì giocata con molta più ironia. Qui c'è una brutalità e una gravità che ormai non ha confini, però appunto fa riferimento, cioè sono dei sketch volgarissimi, ma che non fanno più riferimenti antropologici a delle figure, non c'è più bisogno di raccontare una società. Citano i personaggi. Se stessi, basta certo. Citare se stessi all'infinito. Cioè, viene a pensare, visto che parliamo di cinema di genere, mentre parlo con te, ho davanti a un giornale aperto, la rassegna stampa di Cinepanettoni, e vedo la polemica su Nymphomaniac, il film di Lars von Trier, di cui si sta parlando. C'è un film porno d'autore, sarà importato il porno d'autore. C'è una scena di una signorina fra due baldi mandingo che mi ricorda tanto Cicciolina banana al cioccolato. Ma perché dobbiamo fasciarci la testa o riempirci di parole o ammantare d'arte quando è nient'altro che una citazione della più scellerata maniera di pensare il cinema? Anche questo viene considerato un film d'autore. Non vale anche per il Cinepanettone. Il cosiddetto muccinesco lamento, ti ricordi il moccio amoroso di Moccia Muccino, l'amore moccioso? Ne abbiamo parlato tanti. Quanto ci siamo fatti pippe mentali sulla commedia? In realtà non facciamo altro che citare delle brutte copie di questo terrificante ma realistico luogo di rappresentazione di noi stessi. No, è verissimo, noi abbiamo fatto anche una puntata su Checco Zalone, che ha incarnato in realtà una profondità che avevano i primi Cinepanettoni, perché Checco Zalone invece è ben inserito in una realtà, nasce adesso, nasce da tre film e quindi cita, come dicevamo, è un Homer in salsa pugliese che ha questo contrasto col figlio Lisa, geniale, che fa esalta la sua brutalità, la sua inadeguatezza, la sua meschinità grottesca, perché poi trova questo riscatto finale. Però appunto ha dovuto rinnovarsi quel tipo di cinema per continuare a riempire i botteghini. Selvaggia? Sì, sono arrivato da pochi minuti. Certo che mi mancate. Martina, come sta? Amore, senti, sì, ti devo lasciare perché ho poche batterie. E ti richiamo dopo io. Arrivo. Sorpresa! Porca valente, mo. Ma che siete matte? Che state a fare? Ah, è proprio una bella accoglienza. Te l'avevo detto che era meglio avvertirlo. Era meglio sì, Martina ha ragione. Bene, se vuoi ce ne andiamo anche subito. Magari. Magari? Come magari? Ci siete cascati, ho fatto uno scherzetto, la burla. Ma che sorpresona di Natale! Certo, diciamo, il materiale dell'immaginario coniugale non è cambiato dai tempi di Franca Valeri e Alberto Sordi, sempre uguale. Il Marpione, come negli anni 50-60, organizza la vacanzina con l'amante e fa l'improvvisazione alla moglie. Lui dovrà destreggiarsi in questa sorta di ambiguo gioco, cenando metà con una, metà con l'altra, andando a dormire metà con una, metà con l'altra. E questa è una chiave che è stata ripetuta all'infinito. In quanti Cinepanettoni c'è lo sdoppiamento con attacchi improvvisi di diarrea? Scusa, sto male, devo andare un attimo in bagno, e va a finire l'altra cena con l'amante. Sì, la pochade, che poi ha degli stilemi antichissimi. L'importante è riuscire a usare questi stilemi che rendono comico e danno ritmo a un racconto, e per raccontare però il proprio tempo con le sfumature. Quindi tu era bigamo in questo caso, era molto di più. Sì, poi l'altro stilema è quello dell'arrampicata sociale da Conte Max, è tipico, no? Il personaggio che viene da una stazione sociale bassa, che si finge aristocratico nei modi e poi se ne va disgustato dalla classe. Certo, è stato stiracchiato e spremuto il nostro patrimonio dei primi decenni al dopoguerra in poi, proprio veramente all'osso è stato spolpato. Però quelli facevano riferimento a una realtà, è sempre lì il discorso, gli stilemi li puoi anche riutilizzare, in fondo derivano dal mondo classico, sono gli stessi da Plauto, da Terenzio, però rigiocati e osservando, cogliendo sfumature nuove, possono risultare interessantissimi. Ma dico io, con 8 milioni di persone che ci stanno a Rio, ma proprio quando dovevano venire? Senza soldi, senza passaporto. Per fortuna che avevamo l'indirizzo di questa signora gentile. Non so io perché è gentile, a Buzzicozza. Buzzicozza? Buzzicona Gozza. Ha fatto una crasi? Una crasi. Ma questo è scappato, non mi sono accorto, ma è strano perché di solito fa nebulle. Diciamo, questa è entrata ormai nel parlare comune, la crasi sottintesa come lettura inconsapevole della flatulenza sott'acqua, sì, sì. Tanto che quando Ghini e De Sica presenteranno Miss Italia. Non era De Sica, era Ghini, è un altro personaggio di cui non c'è memoria proprio. Comunque rappresentava la spalla di Ghini. Hanno presentato la sfortunatissima Miss Italia sulla 7, altra pretesa di voler mettere nella più fanta fighetta terrazziera delle televisioni qualcosa come Miss Italia. Beh, citò la Crasi, nessuno capì soltanto che doveva capire. La Crasi come onomatopea, appunto. Vabbè, qui Buzzicozze si gioca ancora col linguaggio, sempre citando le distorsioni magnifiche di Totò, ma appunto quello era quasi Gadda. Qui ovviamente tutto è banalizzato, diventa insomma ridotto anche qui all'osso, fino a sfinirla su questo linguaggio. Fino a Guido Nicheli, appunto, riusciva a farne 10.000 di battute in un film come questa, ma anche molto più, che in realtà annunciavano poi il linguaggio che sarebbe venuto dopo, i ciusi, quelle che abbiamo sentito anche ultimamente. Insomma, è un linguaggio che è diventato poi tessuto. Ma brutto che con la fine del cinepanettone finirà questa lettura. Noi, fra 30 anni, ammesso che siamo ancora vivi e difesi da qualche buon vermifugo, non potremo più parlare dell'Italia vista attraverso i cinepanettoni. Un'altra citazione ti faccio: in questo film ci sono degli elementi forti, che il gatto gonfiato, il gatto volante, il gatto che viene ucciso, viene rivitalizzato attraverso una sorta di pompaggio che è stato preso più volte, però è un grottesco con trucchi da film di quarto ordine, che fa ridere proprio nella sua orripilanza, nell'essere qualcosa di totalmente improbabile oggi. E dai, no, e gioca su. Fucilata all'incrocio dei pali e zin! Io te la darei per te una fucilata, vedi? A Remo, al posto del culo c'è una cassetta dei cocomeri, Ma quale culo? A Fabio, spiegasti proprio con chi stanno a giocare. Io so come Pelé, come Ribò, come Albertone Tomba, come il Brunello di Montalcino. I'm another category, Dai, a famari vinci, stavolta li sfonniamo. Ma che ve sfonnate? Con ste facce da sfigati potete provare giusto col gratta e vinci. Qua ci stiamo sempre più avvicinando alla contemporaneità e anche al momento del rifiuto, della presa di distanza. Improvvisamente i protagonisti del cinepanettone si sentono essere altro e quasi rinnegano questa sorta di loro peccato giovanile, che sarà l'unica rappresentazione di cui passeranno alla storia, come Gassman, che pensava di essere un grande attore tragico di teatro e passa per Brancaleone o per le commedie brillanti che ha fatto con Tognazzi. Hai sentito la C aristocratica di De Sica come Montalcino, no? Mentre sta a tavola con Bernabucci, che è il trivialissimo finocchiaro di Compagni di scuola, cioè era uno che tra l'altro fa rappresentante di libri, che fu scoperto da Verdone, no? Quelle figure che però erano molto sapide ancora, poi si cita il gratta e vinci, si citano le ossessioni, quelle che stanno intanto le ossessioni. Stiamo già arrivando ai tempi nostri. Aditi, c'è nessuno a casa? Aprite che mi sto cagando sotto dal freddo. M'ho chiesto qua. Scusi, ma che fa? Cosa grida? Bravo, chicco, fammi entrare qua, che mi sono fatto nuova cortina in 4 ore e 6 minuti. So proprio che è sconvolto. Ma spenga quella musica. Ma che te piace la tecne? Senti che roba. No, non ci piace. E poi qui c'è gente che sta ancora a letto. Stanno a scopare, De mattina, ma come gli va con sto freddo? Oh! Ma che modo di parlare? Siamo nel Veneto, nella perla delle Dolomiti, mica a campo di carne. Lo senti, lo sai che ti dico? Ma fammi entrare, va. Ecco qua, siamo, diciamo, sembra molto vicino, ma ancora siamo al 2000. Ci sono altri 13 anni di cinepanettone dopo questo, però già vedi, già sembra di entrare nella contemporaneità, già i personaggi Ercipolla già appartengono ancora all'humus imperterrito e immarcescibile di quello che passa al mercato. Ercipolla, che è un personaggio più televisivo, e cita appunto il percorso che citava Guido Nicheli, cioè riuscire a coprire il percorso per arrivare a Cortina con grande rapidità. E De Sica si impunta sempre nel suo solito ruolo di aristocratico indignato. Grazie Giuseppe Sansonna, alla prossima.